Quest'anno la giornata mondiale del rifugiato è stata organizzata dal Comune di Bologna, da ASP Città di Bologna e dagli enti gestori che gestiscono i servizi di accoglienza sul territorio bolognese in maniera metropolitana, cioè si è cercato di organizzare degli eventi nei vari territori in modo che anche i cittadini dei territori fossero coinvolti e anche coinvolgendo attori culturali del territorio che avessero un'offerta culturale adatta al tema. E quindi c'è stato tutto un lavoro di organizzazione in accordo appunto col comune, con i distretti culturali, con i distretti sociali e con i comuni, e da questo è uscito un cartellone di eventi sparsi diciamo nel territorio metropolitano ma anche in città, e sono eventi culturali di vario tipo. Quali sono gli eventi imperdibili? Allora, l'evento imperdibile è il concerto di venerdì 23 in Montagnola della cantante di origine caraibica Queen Omega and the Royal Souls. È una cantante famosa a livello internazionale, fa una musica mista fra soul e rap e presenta il suo Freedom Legacy album nell'ambito del suo tour europeo. Si fermerà a Bologna, quindi sarà questa grande festa in Montagnola, aperta a tutti, anche per gli ospiti dell'accoglienza. Un altro evento molto importante è il convegno del 20 giugno sulla normativa dell'asilo e l'accoglienza delle persone rifugiate tra narrazione e verifica dei fatti. È un convegno di formazione per giornalisti, ma aperto anche al pubblico, e qui avremo due importanti giornalisti che daranno il loro punto di vista, discuteranno anche le ultime novità legislative e gli ultimi scenari sia a livello europeo che a livello italiano. Poi abbiamo vari spettacoli, ad esempio questa sera al Parco Primo Maggio di Bazzano lo spettacolo Mediterraneo, abbiamo una serata di teatro e chiacchiere e musiche a San Lazzaro il 27, il distretto Pianura Est è molto attivo con ben tre eventi a Pieve di Cento, a Budrio e a Castenaso. E poi ci sono due proiezioni importanti al Lazar, Officine di Comunità, sarà proiettato Trieste Bella di Notte, l'ultimo film di Segre sul tema dell'arrivo dalla rotta balcanica, e il 19 giugno al Cinema Arlecchino nell'ambito di Biografilm The Mind Game, che è un film con delle immagini girate da un migrante stesso afghano, e sarà presente anche lui in sala. Tra l'altro il manifesto è stato realizzato da una studentessa. Sì, è stato realizzato dalla studentessa Federica Annunziata, ma nell'ambito di un progetto collettivo, cioè tanti studenti del corso di grafica hanno partecipato dopo un incontro che è stato fatto con noi, con gli operatori dell'accoglienza e con ASP, ascoltato cosa vuol dire l'accoglienza, cos'è il progetto SAI a Bologna, e poi hanno elaborato varie proposte. Tra queste ne sono state selezionate alcune, poi il sindaco ha scelto questa qui, che comunque era la preferita da tutti, perché c'è la singola persona che viene abbracciata, anche se non è, c'è l'idea di un essere umano che viene accolto.